E poi c'è stata una gestione sbagliata, come credo, riguarda le scelte manageriali. Ritengo anche che c'è stato un errore per la fondazione non scendere, non accettare appunto di scendere nel capitale della banca come hanno fatto tante altre fondazioni di origine bancaria, di indebitarsi per mantenere il 49% del capitale della banca. Ma questo riguarda i vertici della deputazione, i vertici della banca. Dopodiché è evidente, ripeto, è nella legge che quelle nomine sono state fatte da enti territoriali che a Siena erano espressione della banca, cioè il rapporto tra banca e amministrazione o partito è inverso di quello che si tende a descrivere. Non era il PD locale che influenzava la banca, ma era la banca che influenzava il PD locale, tant'è che i sindaci prima di Cecuzzi erano espressione diretta del management della banca.